14cisima.tata. Buongiorno, benvenuti alla, Bonjour, no, aspetta, o parlo io o parli tu? Infatti, mettiamoci d'accordo perché qui... Allora, di solito parlo io, quindi io ho ricevuto ordini di squadra che parlo io. Un attimo, adesso andiamo a vedere cosa si è deciso nel contratto, chi è il capitano, chi è il conduttore, chi è il co-conduttore, capitano e co-capitano. Sì, a me dall'ammiraglia mi hanno detto che sono co-capitano, quindi dico bonjour, vidon, di solito lo faccio io, quindi lo faccio io. Vabbè, se voglio farlo io un giorno non posso. Ma mica hai avuto il via libera, non mi sembra. A me ieri hanno detto che potevo presentare liberamente la trasmissione. Ma se fino adesso l'ho fatto io, perché adesso ti viene in mente di farlo tu, scusa. Perché cambiano le dinamiche, allora, all'interno che tu di una squadra, non puoi essere statico. Ma va bene, allora facciamo che tu dici bonjour bidon e io dico che ore sono, dai. Va bene, cominciamo adesso? Dai, 3, dai. 2, no, 1. Dai, di bonjour, bonjour bidon, benvenuti alla 14ª puntata della trasmissione più simpatica del... Vedi che era meglio che lo facessi io. Io sono Angelo Trofa, a fianco a me c'è Leonardo Piccione. Piccione. Dai, era bello. No, ma facciamo così, chi conduce veramente questa trasmissione lo deciderà la strada, va bene? No, ma che cosa decide? Lo deciderà la strada. Nel frattempo, se sei d'accordo, caro co-capitano, io direi di iniziare. Va bene, cominciamo. E buongiorno, prendo a parlare io se sei d'accordo. Va bene, caro vai, Leonardo. Vai, Angelo. Buongiorno e benvenuti alla nostra 14ª puntata di Bonjour Bidon. Noi siamo come sempre in diretta, sono le 11.05, mai come oggi puntualissimi. Abbastanza. Vabbè, ritardo di 5 minuti. Dai, ci siamo. Stiamo migliorando, Siamo a Cagliari, una Cagliari oggi tempestata dal maestrale, che è molto piacevole per noi sentire, sì. Però purtroppo crea anche problemi con gli incendi che in questi momenti stanno affliggendo la bella Cagliari, però si rinfresca, ecco. Sarebbe bello trovare un equilibrio tra le due cose, ovviamente speriamo che si risolva prima il problema degli incendi, poi quello del nostro caldo, che è decisamente secondario. Il maestrale l'hai conosciuto, adesso che ormai sei di Cagliari, Leonardo? Sì, ormai sono di Cagliari. Si sente dell'accento, effettivamente. Mi dicono che ormai è davvero bene, dai. No, stamattina passeggiavo per Cagliari, ho trovato un arrotino che pedalava in bicicletta, e muoveva, azionava la sua ruota per affilare il coltello pedalando, ed era vestito di giallo, aveva una camicia gialla e l'ho colto come un segno, sai... Bisogna stare attenti ai segni, sì. Dicevo, la Sardegna è una terra molto antica, sì. Molto ricca di simboli e di storie, di leggende. Io il arrotino in maglia gialla in bicicletta, secondo me vuol dire qualcosa, no? Ma l'hai preso come simbolo di Aru in maglia gialla o come di coltelli in bicicletta? Che simbolo era? un misto delle due cose. Cari amici, come sempre gentilmente ci state ascoltando, oggi vi chiediamo di intervenire nella nostra trasmissione come al solito. Se vi va, mandateci le vostre domande, le vostre curiosità. Oggi dedicheremo un po' di tempo anche a rispondere. Già in questi giorni ce ne sono arrivate, ce le saremo segnate. Dopo dialogheremo con coloro i quali ci hanno scritto, ci scriveranno qualcosa. Sì, quindi ci è arrivata, vi invitiamo, già una domanda, sì, la faremo subito tra poco. Sì, vi invitiamo. Vi ricordiamo, per chi ci ha seguito, che tra poco avremo con noi Alessandra Giardini, e quindi se avete domande da fare anche a lei, scrivetecele e noi gliele rivolgeremo. Domande su qualsiasi cosa, sulla tappa di ieri, sul tour in generale, sul ciclismo, sulla vostra vita, problemi di cuore. Sulla cucina, certo. Sulla cucina, quello che vi pare. La posta del cuore di Alessandra Giardini. Chissà se sarebbe contenta, glielo chiediamo dopo. Ma intanto oggi c'è un'altra. Si era detto, non dilunghiamoci, esatto, andiamo veloci oggi. 9 minuti di trasmissione. L'altra novità di oggi è che non c'è il nostro Filippo da Milano, ma sempre da Milano c'è un altro collaboratore, membro della redazione di Bidon, c'è Francesco Bozzi. E anche lui ha diritto allo stacchetto. No, non è vero, non ha diritto allo stacchetto. Stacchetto, riproviamo. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Come va? Come state, ragazzi? Noi bene, tu? Tutto bene. Va abbastanza, dai. Sei a Milano in questo momento? Un caldo moderato qui a Milano. Caldo moderato. Angelo, devi sapere che Francesco, lo sai, però lo dico ai nostri ascoltatori, è facciamo toscano. Finta che io non lo sappia. Facciamo finta che tu non lo sappia. È toscano, è di Arezzo. E quindi oggi la quota toscana della nostra trasmissione è oltre i limiti di guardia, perché abbiamo Francesco, abbiamo Pietro, oggi... Esatto. Oggi dobbiamo stare attenti. A Boris, i toscani rovinano l'Italia, quindi bene moderarli. Esatto. Francesco, la tappa di ieri, l'hai vista, ti è piaciuta? Era impossibile non vederla, sì. Bella tappa, indubbiamente, perché comunque ha, secondo me, ha portato fuori tanti temi che non erano stati portati fuori nel corso delle altre tappe. E poi era una tappa particolare, perché, insomma, tappa cortissima, che era un po' un'incognita, e che invece ha tirato fuori appunto tante cosine interessanti. Capito, per chi non avesse seguita, la tappa di ieri è stata una tappa particolarmente animata, 100 km come dicevi tu Francesco, animata tra l'altro da una fuga di tutto rispetto, da un attacco di nomi importanti, e che ha visto invece dietro una guerra costante e tesa tra quelli che definiamo gli uomini di classifica. Veramente è successo quasi di tutto ieri. Sì, proviamo a fare un piccolissimo riassunto. Quello che è successo è che la tappa era breve, come ha detto Francesco giustamente, è un format nuovo, diverso del ciclismo, che funziona, sta funzionando, ha funzionato la Vuelta l'anno scorso, ha funzionato quest'anno al Tour. Io quando dico che il percorso di questo Tour non mi dispiace, non mi dispiaceva, è proprio perché ha avuto il coraggio il Tour di introdurre una novità come questa, e quindi credo che questo sia un segnale di apertura e di anche riformismo in un certo senso. Il Tour, sappiamo, è conservatore e di destra, diceva Marco Pastonesi, però questa tappa come quella di ieri e altre che vedremo nei prossimi giorni sono un segnale, secondo me, di apertura anche al nuovo. E questa tappa, queste tappe brevi sono una cosa nuova del ciclismo, bella. Ovviamente bisogna usarle con criterio, non è che puoi pensare a un Tour o un Giro fatto solo di tappe così. Sì, concordo, anche perché comunque veniva dopo una tappa lunga e impegnativa, esatto, come quella del giorno prima, quindi diciamo che non abbiamo una cartina tornasole per valutarla nella sua interezza solo, cioè, e quindi replicarla anche per i prossimi anni in maniera solitaria. Però devo dire che è riuscita, perché comunque ha portato fuori, ha esposto tutti i capitani di fatto. Certo, quindi la certificazione del fatto che queste tappe funzionino e tirino fuori il meglio del ciclismo, dei grandi giri contemporanei, viene dal fatto che il corridore che l'ha movimentata è il corridore più tradizionale, probabilmente più tipico, che è rimasto in gruppo, che è Alberto Contador. Se un corridore come Contador, tradizionale, legato al ciclismo del passato, si esalta in tappe moderne come questa, perché è lui che poi col suo attacco ha fatto saltare un po' tutto per aria ieri, per quello che è saltato, vuol dire che queste tappe effettivamente conservano qualcosa di tradizionale. Nella loro modernità riescono a riproporre la fantasia e la tradizione del ciclismo. Per correttezza dico anche una mia osservazione: va bene, sì, la tappa è stata disegnata in maniera abbastanza anomala, ma era anche anomala la situazione di partenza, perché se Froome avesse avuto ancora la maglia gialla, la Sky avrebbe tirato comunque per tutti i 100 km. Quindi in realtà gli elementi in gioco di novità sono anche diversi. Sappiamo, la casualità. L'anno scorso alla Vuelta Froome era leader e comunque successe di tutto in una tappa simile a quella di ieri, quindi non lo sappiamo. Certamente la situazione tattica di ieri ha contribuito alla bellezza di quello che abbiamo visto. Contador. Abbiamo detto già di Contador, l'attacco si è portato dietro Landa, splendido, della situazione di Landa parleremo tra poco, e si è portato dietro, sì, anche Quintana, cioè Quintana e Barghina hanno raggiunto poi Contador e Landa che erano in fuga, e bene Quintana, cioè io vorrei dire anche una parola su Quintana, che l'anno scorso in una tappa del genere, di nuovo insieme a Contador, era stato protagonista, aveva vinto la Vuelta in pratica grazie a un attacco del genere, ieri ha dato un bel segnale, lui ha carattere. Per quanto non lo dimostri, per quanto sembri sempre uguale a se stesso, la reazione, non sei d'accordo? No, ascolto, ti sto ascoltando. Un po' di voglia di reagire, di farsi vedere, ce l'ha, l'ha messa in mostra anche ieri, e adesso è a 2 minuti dalla maglia gialla, cioè in questo Tour così anonimo, così grigio, Quintana, dopo la metà, dopo i Pirenei, è a 2 minuti dalla maglia gialla. Forse Luca Carta su Facebook ci suggerisce che forse sono le tappe brevi che esaltano Quintana, chissà, magari... Sì, probabilmente è così. E in una tappa che è durata poco più di una partita di calcio e poco meno di una partita di NBA, Contador si è saltato e Landa ieri ha dichiarato che Contador tutto il tempo gli ripeteva: Michel, facciamo qualcosa di grande, spingiamo fino alla morte, ma oggi facciamo qualcosa di grande. Per dire cosa è stato l'attacco di Landa e di Contador. Caspita. Ieri insieme. Sì. Beh, la grandissima novità, come si diceva prima, è anche la Sky, la squadra che ha che ha dominato gli ultimi anni al Tour de France, ieri in una veste totalmente nuova. Questo è l'elemento, no? Nuovo, e che forse ha contribuito al divertimento che c'è stato ieri. E uno dei direttori sportivi della Sky ha detto: nessuno sa cosa può succedere in questa situazione, perché noi non l'abbiamo mai vissuta e nemmeno il gruppo è abituato a vivere una situazione con la Sky all'attacco. E quello che è successo ieri, alla fine, al di là della situazione cervellotica che ha creato un po' la Sky, è che questo gioco alla fine dei conti è stato molto positivo per loro, perché si ritrovano in questo momento con Froome vicinissimo alla maglia gialla, a 6 secondi dalla maglia gialla, e Landa a 1 minuto e mezzo dalla maglia gialla. Quindi hanno la possibilità di giocare su due fronti con due corridori fortissimi. È chiaro che poi questo può diventare anche un elemento negativo per loro, se non dovessero chiarire. Va gestito in un certo modo. È chiaro che Froome il capitano, però perdonami, concludo, alla fine della tappa di ieri l'osservazione che c'è da fare è che la posizione di Froome è rafforzata rispetto al giorno prima. Ne è uscito meglio di quanto non ne fosse uscito dalla tappa del Peyresourde. Questa sì è un'opinione, voglio semplicemente ricordare a chi magari ha perso la tappa di ieri, tra i pochi mi auguro l'hanno persa, è successo che Landa è andato in fuga, come diceva, insieme a Contador, e dietro però si è creata una situazione un po' particolare, perché a tratti Landa è stato al limite di essere maglia gialla virtuale, perché non solo è entrato in classifica ma ha proprio avanzava in classifica, perché il minutaggio della fuga con Contador aumentava, e dietro abbiamo visto una situazione un po' particolare che ha dato vita a molti discorsi. Abbiamo sentito l'opinione di Leonardo, ce ne sono anche altre, assolutamente, dove forse la Sky non si è comportata in maniera così brillante, perché parlando ovviamente per ipotesi, avremmo potuto avere anche ieri Landa in maglia gialla se la Sky avesse corso diversamente, se Froome non avesse attaccato sull'ultima salita riducendo in prima persona il distacco il paradosso era che Landa era in fuga davanti e tirava con Contador e poi con Quintana, e dietro tirava Kwiatkowski con Froome, quindi uno contro l'altro, però tutto bene, loro sono contenti. Alla fine la situazione ha sorriso a loro. Invece ha sorriso anche a Fabio Aru, Francesco, perché Aru si è difeso e ha tenuto benissimo la maglia gialla ieri. Sì, ha tenuto benissimo la maglia gialla, contando anche che secondo me aleggiava un po' di scetticismo sulla Astana, un po', ma anche su Fabio Aru, perché gli addetti, insomma, alla corsa, come Vegelius per esempio, aveva definito la sua come una maglia in prestito, quindi non proprio una maglia così certa. E invece Fabio, secondo me, ha mostrato un'autorità e anche un'intelligenza di corsa importante, anche perché appunto è rimasto solo fin dai primi chilometri e poi ha seguito in maniera intelligente senza sforzarsi troppo, quindi è stata una tappa che gli ha sorriso, e anche questo tipo di classifica secondo me lo aiuterà in futuro, perché avendo una classifica così corta ci sono molti interessi oltre al suo, e avendo una squadra debole avrà aiuti da altri corridori. Mi viene in mente Martin nell'ultima salita, mi viene in mente la stessa Sky tirando gli ultimi chilometri, quindi è una situazione fluida che ha un corridore intelligente con l'esperienza di Aru, nonostante la gioventù, secondo me può far solo bene, e Aru è stato bravissimo. Sì, è stato bravo. Chiudiamo un attimo il discorso, poi lo riapriremo subito perché c'è il sardo in sardo, dicendo che ho letto da alcune parti un giorno in meno verso Parigi per Aru. Io sarei un attimo cauto, perché non è un giorno in meno verso Parigi, è anche un giorno in meno verso Marsiglia, verso la cronometro di Marsiglia. Quindi Aru ieri doveva difendersi, si è difeso bene. Da ora in poi dovrebbe forse pensare anche ad attaccare, perché il vantaggio che ha su Froome e sugli altri avversari è veramente risicato, non può difendersi tutti i giorni fino a Parigi, fino a Marsiglia. E alcuni si auguravano perdesse la maglia, i più tifosi si auguravano la perdesse sta maglia. La maglia, dal mio punto di vista, è sempre meglio tenerla finché è possibile, però se questo deve significare spremersi e consumarsi del tutto per tenerla per qualche secondo, tanto vale invece ripassare dalla parte dell'attaccante, che è forse quella che a Daru riesce meglio. Beh, lo scopriremo solo vivendo. Noi però abbiamo, come di consueto, il consiglio, l'osservazione di Elio Turnartemalle, che ci racconta di un modo di dire sardo che si adatta esattamente alla condizione ieri di Aru, che ha dovuto difendere con mezzi scarsissimi, perché la squadra purtroppo va frantumandosi. Ieri si è ritirato anche Fuglsang, quindi non ha più una squadra che possa aiutarlo, e quindi ha fatto un po' di necessità virtù, dimostrando mancando, secondo me, grande talento e lucidità. Però ascoltiamo qual è il detto che si adatta alla sua situazione con le parole di Eleuturno Artemalle e il suo Sardo in Sardo. Misurare le proprie azioni in ragione del contesto non è solo un fatto strategico, a volte è una dote innata. È ciò che consente agli imprenditori di non fare investimenti avventati, agli innamorati di non riportare a casa un temerario anello di fidanzamento e a chi vuole riposare di non svegliarsi con i piedi intirizziti dal freddo. A tutti è infatti capitato di dormire avendo una coperta troppo corta. Non c'è verso di stare distesi come vorremmo. E allora il trucco consiste nell'occupare nel letto lo spazio giusto, nel capire quale sia il beneficio massimo che si possa sperare in una situazione non certo ottimale. Insomma, allunghia essa gamba conforme a suo lenzuolo. Allungare cioè la gamba quanto lo consentano le dimensioni del lenzuolo. Forse non si dormirà come dei principi, ma di sicuro arriveremo al mattino con i piedi caldi. Bello anche questo. Sì, la coperta troppo corta della stana. Sì, esattamente, esattamente sarà questo il compito di Haru e della stana, giocare con questa coperta corta e rimanere coi piedi caldi in un certo senso. In attesa di collegarci con Alessandra Giardini, leggo due domande che ci sono arrivate. Una di Gianmarco che ci chiede: Quintana e Contador possono diventare l'ago della bilancia e in un certo senso anche i migliori alleati di Haru? Allora, su Contador sono d'accordissimo, perché Contador, come leggevo ieri, potrebbe essere quello che decide chi vince il tour. Con i suoi attacchi, con i suoi tentativi, può portarsi dietro qualcuno e davvero diventare l'ago della bilancia, come dice Gianmarco. Su Quintana meno, nel senso che Quintana è vicino in classifica, non lo ritengo fuori dalla lotta per la maglia gialla, quindi Quintana forse è un alleato meno possibile per Fabio Haru. Un'altra osservazione che ci fa Alessandro su Facebook: ma se amate le tappe corte, perché non guardate il ciclismo su pista? Allora Alessandro, noi il ciclismo su pista lo guardiamo e ci piace. Ci piacciono le tappe corte, abbiamo detto che non vogliamo che i grandi giri diventino soltanto tappe corte. Le tappe corte, come quella di ieri, sono un elemento nuovo, importante, che aiuta a introdurre qualcosa di divertente in un ciclismo, in grandi giri moderni che devono inventarsi qualcosa per poter essere attraenti e divertenti. Quindi è una possibilità quella delle tappe corte, ogni tanto, non è che vogliamo un giro, un tour fatto di tappe corte. Siamo riusciti assolutamente a contattare Alessandra Giardini, che bello. Abbiamo nuovamente con noi al telefono, ma prima di sentirla mandiamo anche a lei come omaggio il nostro stacchetto. Alessandra, sei contenta? Ti abbiamo messo lo stacchetto oggi. Fantastico. Come stai? Molto bene, voi? Molto bene, grazie, anche noi, anche noi. Ti faccio subito una domanda, perché l'ultima volta ci siamo lasciati e tu eri abbastanza arrabbiata con il Tour de France che aveva appena cacciato via Peter Sagan. Negli ultimi due giorni con i Pirenei, con Haru in maglia gialla, ti sei un po' rapacificata col Tour o hai ancora qualche sassolino nelle tue scarpe? Allora, dovete sapere che io sono sempre arrabbiata con gli organizzatori per contratto. Quando sono al giro scrivo dei pezzi terribili su Vegni, sugli organizzatori, dicendo che dovrebbero imparare da quelli del tour. Quando comincia il tour comincio a sfondare i francesi dicendo che non è neanche paragonabile al giro, che fa schifo, che fanno tutto per i corridori francesi. Quindi io ce l'ho sempre con gli organizzatori, ma non così per partito preso, perché in realtà secondo me sbagliano tante volte tante cose. Il giro spesso si è rovinato con delle lunghe crono insensate, perché sì, nell'era in cui hai due scalatori italiani, io sono convinta che il Tour non avrebbe fatto i giri che sono stati fatti negli ultimi anni, compreso l'ultimo, e invece il Tour rovina il giro per favorire i corridori francesi che notoriamente non vincono mai. Ora sarò sicuramente smentita questa volta. Io in realtà scherzo, ammiro moltissimo quello che i francesi hanno fatto con il loro vivaio, sono stati bravissimi. Sono cose che il ciclismo italiano dovrebbe fare da tempo. Dai, uno come Bardet non ti piace? O come Barguil ieri? Mi piace moltissimo. Barguil meno. Mi ricordo un po' Viranca anche fisicamente, quindi non mi piace tantissimo. Bardet mi piace molto, molto, molto. Non so se ha la statura per vincere un tour. Naturalmente vincerà questo, molto probabilmente, perché Froome non lo vedo così, così come al solito. No, però dicevo, sono ancora arrabbiata per questa storia dei 20 secondi di penalizzazione. L'altro giorno ero andata a cercarmi il filmato, avevo trovato Bardet che prendeva la borraccia, l'ho anche scritto. E poi hanno fatto questa pagliacciata per salvare Bardet. Ora io questa cosa qua la trovo veramente vergognosa. Se diciamo, come hanno detto in molti, che questo regolamento è ridicolo, ci sto, però finché esiste non ho capito perché Bardet deve prendere la borraccia e Aru no. Aru per esempio non l'ha presa, perché lui è sempre molto ligio, quindi non l'ha presa. Quindi tu dici il buon senso va bene, però finché c'è un regolamento lo rispettiamo. In realtà mi sono divertita, quindi bene. Ammetto che anche un giro che non mi piaceva tanto sta rivelandosi divertente, ma questo dimostra che i corridori sono più bravi di noi e degli organizzatori. Giusto. Però quello che sta facendo l'UCI e la giuria del tour è ridicolo, secondo il mio punto di vista. Poi ho... No, è abbastanza contestabile. Sì, sono d'accordo. Senti Alessandra, adesso che hanno lasciato alle spalle i Pirenei, dici un po', in queste tappe, chi ti ha emozionata di più? Un nome, una storia che ti ha colpito? Beh, aspettate che io non lo so dire perché sono romagnola come Castan, comunque Fuglsang. Ah, Fuglsang. Sicuramente, anche perché non capivo perché continuasse a provarci, perché con le fratture che aveva, ricordiamo che il polso e il gomito per il corridore sono quanto di più doloroso ci possa essere, è meglio rompersi qualcos'altro probabilmente. Sì. Anche se erano microfratture, insomma il dolore che lui provava era evidente e non capivo, cioè era troppo tardi perché lui potesse tornare utile alla squadra in futuro, quindi non capivo questo inutile esercizio di facchiraggio a cui si è sottoposto. Mi ha fatto veramente molto emozionare. Ma poi l'hai capito? No? No. No. Nemmeno noi, però... No, l'unica spiegazione è che i corridori non sono normali, ma questo lo sappiamo da sempre. Esatto. Senti, invece, un corridore che normale forse è, ma fino a un certo punto, è Landa, perché si trova sempre in queste situazioni un po' difficili e c'ha sempre questo sguardo un po' malinconico, non so se lo noto io o anche tu che hai questo sguardo così attento anche sulle storie umane dei corridori. Allora, Landa è bellissimo prima di tutto. Ok, questa è un'opinione che ovviamente rispetto. È difficilissimo trovare un corridore così bello, perché di solito la fatica imbruttisce un po'. Mm-hmm. Landa è bellissimo. Dici proprio bello esteticamente, non come tecnica ciclistica. Come donna, non come... Ok, va benissimo. Lo trovo veramente bellissimo. E ha questo sguardo malinconico che aumenta il suo essere fascino. Interessante. Sì. In realtà credo che sia perché è basco. Sua origine lo rende così, come lo vediamo correre? Lo vediamo correre con... Lui è insofferente alle gerarchie, a me piace moltissimo, è basco in tutto e per tutto, è uno di confine, uno è una minoranza e lo è in tutte le sue manifestazioni. Ma io pensi che... Ho parlato con lui alla fine del giro. Sì. E avevamo parlato a lungo e lui era inferocito contro Froome perché lui voleva fare la Vuelta e vincerla quest'anno. E mi ricordo che mi fermò lui, non ebbi neanche bisogno di fermarlo io, e mi disse: ah, lo sai che non riferisco la parola, però lo sai che quello vuole che io vada al tour a girare per lui. E io dissi: mi dispiace, no, perché così dopo non credo che farò la Vuelta, tre grandi giri in un anno non si possono fare, devo pensare anche al futuro e adesso devo andare al tour a tirare per Froome. E quindi quello che stiamo vedendo, questo mi fa è molto interessante, a quella conversazione. Quindi tu pensi che lui sia un po' insubordinato o si stia adattando? Io penso che lui faccia quello che deve fare, però mordendo un po' il freno, come gli era già successo alla Astana, non è che lui è così, lui è molto forte e si trova sempre in queste situazioni. Probabilmente se io gli potessi dare un consiglio, pensare meno ai soldi e cercarsi una squadra dove può fare lui il capitano, forse sarebbe meglio. È anche vero che però la sorte è stata cattiva con lui, sì, perché comunque al giro 2 anni fa gli avevano messo tutte le possibilità ed era stato sfortunato, si era ritirato. Sì, e anche quest'anno è caduto. Quest'anno è stato molto sfortunato, probabilmente il giro avrebbe avuto una storia diversa senza il blocco. Vero, assolutamente. Senti, però Alessandra, la sfortuna fa parte delle corse e sicuramente lui è molto molto forte, non ha neanche bisogno di gente che lo tiri su in salita, cioè mi sembra uno che va su tranquillamente. Quello che ha fatto l'altro giorno quando ha vinto Bardet è impressionante. Sì. Se poi riguardate l'ultimo pezzo, quello che fa veramente l'impresa è Landa, era dietro a Froome, a un certo punto parte in moto e va su, una cosa. Poi ha 27 anni, è ancora molto giovane per il ciclismo. Ancora molto giovane, sì. Angelo, Devo riferirti che in questi giorni, Alessandra, abbiamo avuto molti complimenti per la trasmissione, per il giorno nel quale ci sei stata tu nostra ospite, e molti ci hanno fatto notare che è stato bello sentire una donna parlare in maniera così nobile e precisa del ciclismo. A questo punto, allora, proprio per le nostre tante ascoltatrici, perché noi abbiamo un pubblico in gran parte femminile, la domanda che ti faccio è... non è per la nostra bellezza, perché non ci vedono, no, non ci vedo, anche perché è inesistente la nostra bellezza, almeno la mia. Leonardo Piccione è un tipo. La domanda è: che cos'ha secondo te il ciclismo che può appassionare una donna? Cioè, ovvero, noi abbiamo la sensazione che non ci siano molte donne che parlino di ciclismo. Secondo te, perché, cosa, quali sarebbero invece i punti che potrebbero appassionare? Allora, se parlate di donne che parlano di ciclismo nel senso che lo seguono professionalmente, io vi dico che un po' è difficile nei giornali fare certi mestieri, un po' è difficile in assoluto seguire il ciclismo, nel senso che è una fatica a cui secondo me non tutti si sottopongono volentieri. Insomma, voi lo sapete. Adesso magari gli ascoltatori non lo sanno, però seguire il ciclismo è un esercizio di sopportazione notevole, si guida per tante ore, è caldo, è freddo, per carità i corridori fanno più fatica, però non è detto, io conosco, ho alcune colleghe che non lo farebbero mai. Posso confermare, ho seguito il giro. Ho seguito il non giro l'anno ultimo. Il ciclismo piaccia alle donne più di altri sport. È semplicemente che fino a un po' di tempo fa le donne non erano abituate a seguire lo sport in generale. Sì. E c'era meno questa abitudine anche in famiglia. Io per esempio vengo da una famiglia dove mio padre si metteva sul divano con me e mio fratello. Io sono venuta su che adoravo tutti gli sport, a mio fratello non gliene frega assolutamente niente, oppure ci portava alle corse, allo stadio, a vedere questo, a vedere quest'altro. Magari non era così a casa di tutti, ora che le donne possono un pochino più scegliere, lo sport piace, non credo il ciclismo in particolare, piace come piace agli uomini, perché è un viaggio, è uno sport che tutti conoscono, perché tutti sappiamo andare in bici, credo, quasi tutti. Quasi tutti, quasi tutti. E capiamo anche la fatica che si fa, per cui è una condivisione molto semplice. E noi ne siamo felicissimi. Non credo che piaccia in particolare alle donne, questo non mi risulta. Va bene, noi siamo contenti, noi osservavamo il fatto che ci sono molte ragazze e donne che ci seguono nel programma in generale su Facebook e siamo contenti che sia così, quindi lo prendiamo come un segnale. Siete voi, seguono voi più che altro. Leonardo, il fan club di Leonardo probabilmente. Non esisterà mai. Ma non è vero, l'organizzo io, adesso... Non, grazie, sembra, non sembra il vecchio ciclismo di una volta, sembra una cosa nuova. Speriamo che il ciclismo sia nuovo, diventi nuovo, ricordandosi quello che di grande e di bello ha nel suo passato. Grazie Alessandra ancora una volta Ricordiamo, noi siamo orgogliosi di avere ospiti Alessandro Giardini del Corriere dello Sport Stadio, che ci inorgoglisce la sua presenza e nobilita la nostra trasmissione. Abbiamo trasmesso nel frattempo la copertina di uno dei suoi libri, vedrai che uno arriverà, che ha scritto insieme a Giorgio Burreddu, è un libro molto bello, e ve lo consiglio. E vi consigliamo anche un'altra cosa, cos'altro? Che state per ascoltare, di chiamare quel numero che sentirete alla fine di questo spot e assicurare a casa vostra gli orologi sbagliati del Tour de France. Va bene. Nonno! Che c'è? Nonno, la sai la storia degli orologi sbagliati del Tour de France? Vedi che nonno sta facendo un sudoku? Dai nonno, raccontamela! E va bene! Era il 1959 e il Tour de France produsse degli orologi d'oro. Ma poi li ritirarono perché gli orologi... Avevano al posto del numero 12 il 13. Ma perché diamine non mi lasci tranquillo a fare il sudoku se la sai già sta storia? Cosa vuoi da me? Mi fai un regalino? È finita la pace in questa casa. La collezione degli orologi sbagliati prodotti dal Tour de France in edizione limitata. Chiamate all'850 50 80 90 60 70 80. Tutti riceverete in omaggio il volume con la storia della fonduta. 850 80 90 60 70 80. Questa battuta era mia. Ma io sono piccola, nonno, l'entusiasmo dei piccoli. Non ti sopporto, ma perché non te ne vai al mare? Uffa. Porco mondo. Tra l'altro... Lo sponsor ci suggerisce di affrettarvi perché le copie del manuale sulla fonduta stanno per finire. Sì, sì, ha avuto molto successo. Sì, Tra l'altro noi stasera qui a casa mangeremo proprio di una bellissima fonduta. Ah, guarda, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Ma invece fammi ascoltare questa musichetta che mi piace un sacco. Sì, è arrivato il momento dello stacchetto nuovo. Vai. Di Zecca che entusiasma tutti. E me in particolare. I cinguetti dalla corsa. Eh sì, sono due giorni che canticchio sta canzone tutto il tempo. Abbiamo alcuni tweet dei corridori che ci raccontano come loro vedono la corsa. Uno dei protagonisti di ieri, sebbene molto discusso perché non si è capito se era più il capitano o non lo era, se era contro. Lo era. Qualcuno scrive simpaticamente Je suis Michael. Je suis Michael, che scrive Piero. Ma questo invece è il tweet di Froome che dice: corsa brillante ieri, i miei compagni Kwiatkowski, Landa bravissimi. Non penso che qualcuno ieri possa dire che il Tour de France è noioso. In effetti Froome ha ragione. Ieri non è stato noioso il Tour de France. E non è stato noioso perché l'altro tweet che vediamo è proprio di chi ha in qualche maniera animato la tappa di ieri, ovvero il nostro contador Alberto. Sì. Che ritwitta con la famosa frase: io adoro il mio lavoro. Me gustas mi trabajo, dice Alberto Contador. E a noi ci gusta invece vedere lui che lavora, molto. Ovviamente è un hashtag che io in generale non sopporto, ma se lo fa Contador lo accetto. Andiamo assolutamente. C'è anche il simpaticissimo Ben Swift che ieri mentre correva si ricorda di aver ricevuto un invito a un matrimonio. Aveva un altro impegno ieri Ben Swift, ma non c'è andato, aveva un matrimonio, quindi ha scritto ieri: avrei preferito molto essere al matrimonio dei miei due amici, spero che abbiano vissuto una bella giornata, la sua sarà stata certamente più impegnativa. Chissà, avrà immaginato la confettata mentre scalava. La confettata, anche che si fa la confettata. La confettata ai matrimoni va molto di moda. Guarda, non vado a un matrimonio da mesi, da anni forse, non ne sento assolutamente la mancanza. Ma sai cos'è la confettata? Sì, so cos'è, ma non so adesso se nei matrimoni invitano, moderni si ha cambiato. Ma tu ti invitano e tu non vai? No, non mi invitano, non si sposa nessuno. Dobbiamo dirlo, al fan club di Leonardo Piccione, sposatevi e invitatelo. Almeno per dargli due confetti a sto ragazzo. Andiamo avanti, c'è un altro tweet molto simpatico di Luke Rowe, che è l'ultimo in classifica, compagno di squadra di Froome, e ha scritto ieri due tweet. Il primo in cui diceva 100 km full gas, gasatissimo e contento, poi dopo si è corretto e ha detto Luke Rowe: beh, 25 km full gas, perché poi gli altri 75 li ho spesi a difendere la mia lanterna rossa, il mio ultimo posto. Il doppio tempo. Complimenti all'onestà di Luke Rowe. E infine l'ultimo tweet che vi sottoponiamo. Ah, molto bello questo. È quello del nostro... di Lawrence Tendam, del team Sunweb, che ieri ha scritto: ho visto una bionda di Tolosa nel nostro albergo, penso che faccia piacere a tutta la squadra e a Warren Barguil. Poi si è corretto anche lui dopo dicendo: la bionda di Tolosa è una birra, fatevi strane idee. E Lawrence Tendam, tra l'altro, è il più grande esperto di birre che c'è in gruppo. È risaputo questo. Ne sa veramente tu. Grazie a Filippo Pelacci che ogni giorno per noi scandaglia il web. Sì, grazie a Filippo, ma grazie anche al nostro altro sponsor. Pure l'altro. Che ci suggerisce una crema per i nostri polpacci. Ok, guys, 2 more minutes. 2 minuti. Mi sto rinforzando, pupacci. Altrecin. Crema alla teina. Tecnologia asburgica per i tuoi polpacci. Sta tecnologia asburgica poi ce la spiegheranno un giorno. È molto asburgica la tecnologia asburgica, ma sai cosa è ancora più asburgico? Pietro Pisaneschi. Esatto, Pietro Pisaneschi, perché tutti sarete curiosi di vedere come sarà la tappa di oggi. Com'è la tappa di oggi? La tappa di oggi prevede delle cose interessanti. Facciamolo dire a lui. Assolutamente, diamo la parola al nostro Pietro con la tappa che verrà. Buongiorno a tutti da Pietro Pisaneschi e benvenuti alla presentazione della 14ª tappa di questo Tour de France 2017 da Blenac a Rodé per 181 km dopo le fatiche pirenaiche. Ecco una tappa dal finale mosso che anticipa le Alpi. La frazione si sviluppa nei dipartimenti dell'Alta Garonna, del Tarn e dell'Aveyron e si conclude a Rodé con il traguardo posto in cima ad un piccolo strappo di circa 600 metri con una pendenza che giunge fino al 9,6% e che dovrebbe arridere a Finisseur rimasti in gruppo. I primi 81 km di corsa sono sostanzialmente piatti, mentre gli ultimi 100 appaiono leggermente mossi con due côte di terza categoria in rapida successione che potrebbero ravvivare la corsa. La côte du Vivaduc du Viar misura 2,3 km e ha una pendenza media del 7%, identico chilometraggio ma pendenza leggermente maggiore, 7,7%, per la côte de Saint-Tré. Dal GPM mancheranno 40 km al traguardo che, come anticipato, potrebbero favorire le qualità di quei corridori dotati dello spunto veloce. Il favorito principale sembra essere Greg Van Avermaet, che a Rodé vinse 2 anni or sono battendo Peter Sagan allo sprint. In chiave francese i nomi caldi sono quelli di Tony Galopin e Lilian Calmaie, nato a pochi chilometri dalla città. Ma attenzione anche agli italiani, Diego Ulissi potrebbe cercare di sparigliare le carte e vincere la tappa, mentre non è scontato che la maglia gialla Fabio Aru piazzi un altro scattino per saggiare nuovamente la condizione di Froome. È tutto per quest'oggi. L'appuntamento è a domani con la presentazione della 15ª tappa del Tour de France. Vi invito a seguire il post tappa ovviamente su Bidon e a cliccare sulla mia pagina Facebook personale, la doppia P or qua. Dunque, vediamo un po' cosa ci dicono invece i nostri esperti qui in studio. Beh, chi sono i favoriti? Pietro di ha fatto già un sacco di nomi, ha detto Van Avermaet, ha detto Ulissi, ha detto anche Aru tra gli uomini di classifica. Io menzionerei Daniel Martin se gli uomini di classifica effettivamente su quest'ultimo strappettino dovessero darsi un po' di battaglia, e non è da escludere. Potrebbe anche arrivare la fuga, in questo caso Calmejan, Pietro, sottolineiamo la giusta pronuncia perché è un corridore importante, si chiama Lilian Calmejan. Se dovesse andare una fuga con Calmejan dentro, forse sarebbe lui il favorito. Però volevo sentire Francesco anche su questo. Io sono un po' come Couch, quindi i pronostici li becco quasi mai. Nemmeno noi. Anch'io un Martin forse, sì. Perché non un Bardiglia, perché ha una gamba straripante secondo me. Vero, quindi forse ieri ha speso un pochino, però... E Gilbert? Nessuno ha nominato Gilbert, dovrebbe essere una tappa in cui lui... O Matthews anche. Gilbert e Matthews? Ma... Angelo, tu non ti esponi mai in questi casi? Non lo so, però vi dico che scrive il nostro Luca su Facebook che dice che se vince Quintana oggi ci offre da bere a tutti. Chiariamo tutti chi? Ma è facile scommettere così, su Quintana. Però, su Quintana poi oggi, magari sulle Alpi si riprende. E invece oggi sarà un po' più difficile. Angelo, non hai detto nulla. No, io non dico nulla, secondo me non ho la più pallida idea di chi vinca. Benissimo, oggi. Benissimo, è il giusto spirito per approcciarsi alla tappa di oggi. Beh, sì, sono pronto a essere stupito da chiunque. Va bene, mi piace. Francesco, ti ringraziamo. Grazie a voi. Ci sentiamo nei prossimi giorni, perché noi avremo una sorpresa che non svegliamo e quindi ti richiameremo in causa. Ciao ragazzi. Ciao Francesco, ciao, a presto. Francesco. Purtroppo Francesco non sentirà il pezzo. Ma come no? Adesso si collega su Facebook. Sì, ma non lo sente qua in diretta, bello fresco, caldo come una baguette. Non sentirà il pezzo di oggi di Fiammetta Ruyu, che è lì, è in Francia, cioè è a Rodez. È andata a Rodez. Sì. E ha sentito questa storia veramente emozionante che vi sottoponiamo con i suoi resoconti ocra. Vabbè. Questa storia inizia dove la foresta incontra la nuvola e dove la nuvola incontra la foresta. Sembra molto strano che questa storia non inizi dove il cielo incontra la terra. Infatti, sì. Ma la terra e il cielo devono capire che non possono essere sempre protagonisti. sì, in effetti. Per far contenti tutti, che questa storia inizia dove si incontrano sia cielo e terra che foresta e nuvola. Va bene, mi consola. Lo la sa cosa. Bene Franchillo, che ai margini della foresta ha la sua abitazione. Franchillo nel suo cuore viscoso e morbido ha un sogno. Viscoso. Trasferire casa sua su un albero e vivere come uno scoiattolo. Bello. Forza Franchillo, scegli l'albero più adatto, cambia residenza, costruisci la tua nuova casa, comincia a mettere da parte le nocciole, cambia pelliccia alla tua vita. Cambia pelliccia, bravo. Ma purtroppo il mondo della fisica non si ferma davanti alla buona volontà dei perdigiorno. No! I rami dell'albero di Franchillo non reggono il peso della stufa a pellet. La casa crolla. Così Franchillo perde la casa, perde il lavoro, perde la moglie, perde anche l'equilibrio. Ovviamente. Ora, negli occhi di Franchillo ci sono solo tante nocciole, povero, alle quali si ricorda di essere allergico. Pure. E mentre una lacrima cala sul suo viso, un airone passa sul cielo. Passa semplicemente. Attonito. Mamma mia. Bella, signore mio. Ma la stufa a pellet sull'albero, cioè. Ma giustamente, come fa a riscaldarsi d'inverno? Ho capito, ma poi è normale che crolli la casa. Ma se uno ha fatto un investimento per la stufa a pellet, che tra l'altro è abbastanza ecologica, cosa fa? La lascia? Se sta andando a vivere sull'albero, se la porta, è ovvio. Ma è ovvio, cioè, vabbè, ma comunque non capisci l'ABC della gente che vive sull'albero. Stiamo disquisendo dell'impresa di Franchillo mancata, no? Per dire a cosa ci siamo ridotti in questo programma. Ah, Leonardo, purtroppo passano i giorni e tu sei sempre più arido. Non fatelo più il fan club di Leonardo Piccioli. Non fatelo. Attonito sono. Non fatelo il fan club. Non fatelo, non ne vale la pena. O fatelo e parlate male di lui. C'è qualcos'altro da leggere? Sì. Oggi sì, molti allora, commenti. Sì, Giorgia dice asburgica mi sembra l'aggettivo più adatto al tour. Sì, è asburgico, perché ha capito il clima dell'asburgico. No, invece fammi leggere questo di Vittorio sull'Anda, che dice che l'Anda ha corso il giro, ovviamente secondo lui questa cosa prima o poi verrà fuori. Cioè, crollerà d'improvviso sostanzialmente. Sì, è un dubbio legittimo, noi non ce lo auguriamo perché ci piace l'Anda, ci piace il suo modo di correre, ci piace il pepe che aggiunge alla corsa. Milena invece dice, sono un'appassionata un po' retro, il ciclismo è pura filosofia di vita, seguo anche altri sport, ma la vera appassionata è mia mamma che segue lo sport al posto delle soap opera. Ah, bellissima, allora. Viva la mamma di Milena. Sì, assolutamente. E invece Luigi ci fa una frase che è tutta da interpretare, che è qualcuno si butta a terra per non cadere. In che senso? È quasi il proverbio di Elio Turnartemalle oggi, da interpretare. Potrebbe essere. Lo interpretiamo dopo, durante la tappa di oggi. Beh, adesso faccio fatica. E cosa abbiamo da fare? La frase, lanciamo una bella frase per concludere. Abbiamo già finito oggi? Solo 47 minuti? Così veloci? Velocissimi, un lampo. Va bene, e allora ci salutiamo. Salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie. Vi invitiamo ad andare sulla pagina di Bidon. Questo lo dice già Pietro, non ripeterti. No, lui dice di andare a seguire la sua pagina. Doppia P. Io dico di seguire il post della sera di Bidon. Verso le 7:30-8 c'è un commento praticamente in diretta alla tappa. E poi c'è anche ancora la gara tra le domande più sentite in telecronaca. Domani eleggeremo la frase vincitrice. Quanto domenica. Noi oggi abbiamo concluso, torniamo alla nostra vita, che vuol dire torniamo al Tour de France. Cos'altro fare se non salutare? Dai, ti sei preparato una frase per il tuo fan club? No, non me la sono preparata, Dai, il tuo fan club vuole sentire una cosa tua. Io dico l'inizio e tu dici la fine. L'accordo in ammiraglia diceva questo. E vabbè, dai, spara, mo vediamo cosa c'è. Allora, restate col ciclismo perché il ciclismo